Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Massimo Candela, Fila e i colori italiani. Di Alessandra Scaglioni. La storia di impresa che vi raccontiamo oggi è quella di Fila, fabbrica italiana lapis e affini, nata nel 1920 da due nobili famiglie fiorentine con un capitale di 1 milione di lire e dal 1956 di proprietà della famiglia Candela. Oggi è leader mondiale nel settore delle matite colorate, presente in 19 paesi con 16 marchi che vanno dagli storici pastelli Giotto alla penne Tratto, dalle paste per modellare Das e Pongo ai marchi acquisiti con la tedesca Lira o l'americana Ticonderoga. Massimo Candela, terza generazione della famiglia, è amministratore delegato di Fila. Fila è un'azienda italiana, nasce nel 1920 in Toscana, è stata fondata per iniziativa di alcuni nobili toscani ed è un'azienda che sino sostanzialmente al dopoguerra è un'azienda che si era concentrata verso, aveva posto il proprio centro di business nel centro-sud Italia. Con la guerra e quindi con le risistemazioni fatte dopo le vicende della guerra, colse l'opportunità di acquisire le attività italiane di un'azienda tedesca, la Lira tedesca, di cui poi magari avremo ancora occasione di parlare durante questa intervista. Quindi Fila divenne a tutti gli effetti un'azienda italiana che si concentrava prevalentemente nella produzione dei pastelli colorati e con il marchio Giotto. La sede italiana della Lira viene acquisita nel 1966 ed apre alla Fila una strada. Storicamente il nostro settore, quindi parliamo del settore delle matite, dei prodotti per colorare, era un settore di direi controllato a livello europeo dalle aziende tedesche. Quindi era una questione di cultura, di tradizione, era un settore che parlava il tedesco. Il fatto di aver acquisito la filiale italiana di un'azienda tedesca ha consentito a una piccola azienda italiana di poter avere un know-how e ad avere qualche ambizione che all'inizio degli anni 60, rispetto alle dimensioni molto più importanti dei concorrenti tedeschi, quantomeno consentì alla Fila, a casa propria, di potersi strutturare come azienda, di cominciare a creare dei margini per poter investire in ricerca, in sviluppo e cercare di colmare il gap che 50 anni fa sembrava assolutamente incolmabile. La Fila in questo periodo ha una fetta di mercato che diventa più significativa, ma che non è maggioritaria. Si struttura, trova nuovi prodotti, ma fino agli anni 80 resta concentrata soprattutto all'interno dei confini nazionali. Poi succede che l'azienda, sotto ovviamente la gestione di diversi amministratori delegati, prima di me c'è stato mio padre, prima di mio padre c'è stato mio nonno, intraprende una strada piuttosto importante, che è quella della diversificazione dei prodotti, perché ovviamente non poteva crearsi un caso di successo basando il proprio business esclusivamente sul pastello colorato, per cui all'inizio degli anni 70 nacque la linea Tratto. Forse, non so se conoscete, i marchi Tratto Pen, il Tratto Clip, e questo quindi ha consentito, sempre seguendo la filosofia di partenza, è quello di proporre al consumatore prodotti di qualità elevata, con prestazioni quindi elevate, ha consentito all'azienda di creare un maggior flusso di cassa per continuare ad investire in ricerca e sviluppo, anche se per il momento, e questo fino alla fine degli anni 90, l'azienda rimane un'azienda essenzialmente italiana, dove ha creato sicuramente un caso di successo, un marchi Giotto e Tratto che hanno mano a mano conquistato quote di mercato via più importanti, ma certamente con la fine degli anni 80 si è trovata di fronte a un bivio, che era quello, direi, è quel bivio fronte al quale un po' tutti gli imprenditori italiani si trovano. Se vendere l'azienda perché la sfida dell'internazionalizzazione è troppo impegnativa anche dal punto di vista finanziario e personale, oppure cominciare a investire per cercare di creare un'azienda che possa poi sostenere il proprio business nel tempo. L'azienda, sotto ovviamente la gestione di diversi amministratori delegati, prima di me c'è stato mio padre, prima di mio padre c'è stato mio nonno, intraprende una strada piuttosto importante, che è quella della diversificazione dei prodotti, perché ovviamente non poteva crearsi un caso di successo basando il proprio business esclusivamente sui pastelli colorati. È stato proprio Massimo Candela, classe 1965 ed entrato in azienda all'inizio degli anni 90, ad aprire la strada per l'internazionalizzazione. Il nostro settore è caratterizzato da bassissime barriere, intanto perché non ci sono barriere di carattere doganale, poi non ci sono barriere legate al fatto che i nostri prodotti si spostano facilmente. Costa poco spostarli, per cui era evidente che un'azienda essenzialmente italiana avrebbe in tempi rapidi subito la pressione dei concorrenti, che erano ovviamente interessati a venire a prendere quote di mercato nel nostro paese. Direi che lavorando tutti i giorni con le persone, vedendo che c'erano dei grandi talenti e la possibilità di, insomma, desiderio di investire, è stata una combinazione fra la necessità e il desiderio di dare, come dire, maggiore prospettiva a un'azienda italiana, perché poi c'è anche questo che caratterizza la volontà di dedicare così tanto tempo e denaro alle avventure fuori dall'Italia. A partire dal 1992 il gruppo inizia una strategia di crescita che lo porta ad importanti acquisizioni sui mercati esteri. Prima l'Europa, con la Francia, per arrivare a due acquisizioni di grande rilevanza. Nel 2005 l'offerta pubblica di acquisto negli Stati Uniti sulle azioni della Dixon Ticonderoga Co., uno dei più importanti marchi della cartoleria statunitense. Nel 2008 all'acquisizione dello storico marchio tedesco della Lira, di cui aveva già acquisito negli anni 60 la sede italiana e che apre i mercati della Scandinavia e del sud-est asiatico. In Francia in particolare, visto che in questi giorni se ne parla tanto, abbiamo acquisito un'azienda francese che aveva la caratteristica di essere un'azienda molto internazionalizzata per la cifra d'affari che faceva. Questo ci ha dato una spinta. I francesi hanno una tradizione di internazionalizzazione piuttosto spinte, questo ci ha dato una grossa mano. Dopo abbiamo fatto tappa in Sud America, in Cile, dove oggi abbiamo un mercato interessante, poi siamo andati negli Stati Uniti, contemporaneamente agli Stati Uniti in Messico e in Canada, perché l'acquisizione che noi abbiamo realizzato è un'azienda americana piuttosto importante che aveva filiali in Messico, in Canada e in Cina. Poi abbiamo acquistato questa azienda in Germania, ora in India. Nel frattempo Fila acquisisce anche in Italia Ladica Pongo con i marchi Didò, Pongo e Das. Oggi l'azienda ha 19 sedi, con leadership in Europa e presenze nella maggior parte degli altri paesi, anche emergenti. E come dicevamo, l'80% del fatturato arriva dall'estero. Oggi i risultati sono straordinari, ma non solo perché l'80% del fatturato si fa all'estero, perché oggi Fila è un gruppo che ha raggiunto, direi, una solidità e può tranquillamente parlare di continuità aziendale nei prossimi anni, perché ha raggiunto una leadership a livello mondiale, oggi direi con tutte le caratteristiche, ecco, del leader che presidia molto bene il proprio business. Le difficoltà ovviamente non sono mancate: operazioni complesse, sostegno di capitale, gestione di realtà molto diverse tra loro. Ma direi che certamente ci sono delle difficoltà enormi legate alle lingue, legate alla diffidenza degli interlocutori, sia interlocutori bancari che alla diffidenza dei clienti o dei concorrenti o anche degli stessi venditori di aziende, che quando si trovano di fronte un interlocutore come potevamo essere noi e magari rispetto a delle offerte concorrenti, devo dire, l'italiano suscita sempre un po' di, come dire, un po' di di perplessità da parte della controparte. Dopodiché, ecco, le solite difficoltà che si incontrano e col fatto di avere a che fare con manager e di dover sempre parlare le lingue degli altri, perché purtroppo l'italiano non è una lingua che a livello internazionale è conosciuta, per cui ovviamente bisogna sempre impostare un business nella lingua degli altri e cercare poi di relazionarsi con le strutture delle aziende che compri da un punto di vista umano, professionale, condividerne gli obiettivi, conoscere i mercati a livello locale. I numeri oggi fotografano un fatturato decuplicato in 17 anni e ancora in crescita e un numero di dipendenti che supera i 4.000. Guardi, quando noi abbiamo deciso di intraprendere la strada dell'internazionalizzazione nel 93, Fila realizzava poco più di 20 milioni di euro. Quest'anno supera agevolmente i 200 milioni di euro, nel 2011 toccherà i 250 milioni. Quindi è una crescita, direi, piuttosto importante, anche perché parliamo di prodotti non ricchi. Questo ci permette di dire che siamo diventati leader mondiali nel settore delle matite e dei pastelli colorati, quindi i numeri sono tutto sommato, ecco, mi riempiono di orgoglio. I dipendenti, ecco, il numero Il numero è grande, nel senso che fa un po' impressione. Parliamo con l'acquisizione dell'India più di 4.000 dipendenti, però deve considerare che abbiamo stabilimenti in zone del mondo dove abbiamo attività molto labor intensive, quindi c'è molta manualità, e quindi parliamo della Cina dove abbiamo quasi 1.000 persone, in India ce ne sono più di 2.000, in Messico ne abbiamo quasi 800, quindi sono numeri importanti, però abbiamo delocalizzato attività con grande manualità. La gestione dell'azienda resta in Italia. Il quartier generale è a Pero, vicino a Milano. E i tre paesi dove sono state concentrate le attività di direzione e coordinamento sono Italia, Francia e Germania. La scelta strategica è stata quella di specializzare le sedi per tipo di prodotto. C'è sicuramente una testa italiana, sia nel marketing che nella ricerca e sviluppo che nella gestione strategica del gruppo. Ovviamente è un continuo flusso di raccolta di informazioni, perché è fondamentale, e di invio di informazioni, perché è uno scambio questo assolutamente essenziale per prendere informazioni dal territorio e rinviarle, diciamo, in chiave strategica. Quello che ha contraddistinto, diciamo, la nostra scelta strategica si basa proprio per il fatto che il nostro prodotto costa poco la movimentazione, abbiamo specializzato i nostri stabilimenti per tipo di prodotto. E spesso questa scelta, quindi abbiamo stabilimenti che fanno solo matite o esclusivamente stampaggio plastico, questa scelta spesso si abbina alla necessità di una presenza in loco di materie prime strategiche. Quindi, per esempio, in Francia la nostra produzione di gessetti e di tempere si trova nello Champagne, perché lo Champagne è una zona ricca di carbonato di calcio, quindi la materia prima si trova sotto lo stabilimento. In Cina produciamo matite perché è molto importante una certa qualità di albero. In una produzione di questo genere, che utilizza il legno come materia prima, il tema della sostenibilità ambientale si impone. Faccio presente che il nostro prodotto sta sempre di più garantendo una certificazione nel legno che utilizziamo. Questo, il nostro obiettivo è quello di arrivare praticamente a un circuito chiuso fra alberi piantati, cresciuti, tagliati e quindi utilizzati poi per produrre le nostre matite. Quindi l'obiettivo finale sarà quello di avere un circuito chiuso. Noi oggi già disponiamo di aree che abbiamo coltivato, quindi sono alberi che noi stiamo facendo crescere, e anche quando non abbiamo piantagioni di nostra proprietà compriamo alberi da fornitori che hanno una certificazione di utilizzo del legname, quindi di riforestazione. Questo è un argomento essenziale secondo noi per il futuro del business, perché ovviamente non si può pensare di continuare a ridurre drasticamente le materie prime del pianeta in modo, diciamo, sconsiderato. Quindi è sicuramente una chiave di sviluppo essenziale. Le prospettive per l'azienda, per una concomitanza di fattori, sono per il futuro più che positive. Ma le prospettive in questo momento sono eccellenti, perché il gruppo è sano. Direi che il mercato in questi ultimi due anni ha visto un'importante riduzione del numero dei concorrenti a seguito della crisi importante del 2009 e del 2010, e quindi questa riduzione dei concorrenti per fila sta generando un'importantissima crescita di business, e il business sta crescendo oltretutto proprio nel nostro core business, quindi nel settore dei prodotti per colorare, e con il target direi fino agli 8-9 anni, quindi pastelli, pennarelli, pastelli cera, pastelli olio. E questo in questo momento direi che si sta sommando a una forte crescita dei paesi, diciamo quelli emergenti, quindi paesi come l'India, come il Messico, che hanno deciso proprio come politica, come scelta governativa, una scelta strategica, di investire nelle scuole e nell'istruzione. Questo sta generando un impulso sui consumi impensabile. Per cui la crisi del 2009 ha fatto molta selezione. In questo momento a questa selezione si sta sommando una forte crescita dei consumi, e la sommatoria di questi due elementi sta significando una fortissima crescita di business. In azienda è ancora presente il padre di Massimo Candela, Alberto, e la prossima generazione è in arrivo. Per me è stata ed è un'esperienza meravigliosa, per cui io ho un bimbo di 4 anni e una bimba in arrivo, per cui è chiaro che il sogno sarebbe che i figli potessero prendere l'azienda, gestirla e svilupparla in modo adeguato. Però senza dubbio priorità l'azienda, perché è un conglomerato di interessi troppo importanti, di famiglie, di manager, di persone che hanno dato l'anima, per cui senza dubbio priorità l'azienda. Nel momento in cui i figli non dovessero avere il desiderio o la capacità di gestire l'azienda nella direzione corretta, senza dubbio priorità l'azienda. Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Fila ha prodotto una serie di matite patriottiche con bianco, rosso e verde. E tra le soddisfazioni per le ultime acquisizioni c'è anche quella legata alla bandiera. Poi un pochettino mi piaceva anche l'idea che un'azienda italiana in un settore storicamente tedesco, devo dire, è appagante, insomma, vedere anche i collaboratori, le persone che ti aiutano, vedere un'azienda italiana che ha successo in giro per il mondo.